Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, parliamo di un libro che ci ripropone uno dei periodi più discussi della nostra storia recente, quello di Mani Pulite, che fece cadere la Prima Repubblica. Tutto cominciò, come ricorderete, negli anni 90, nel 1992, con le prime inchieste del pool di Milano, che poi si fecero sempre più ambiziose e ad ampio raggio, e quei mesi drammatici sono ricostruiti da Mattia Feltri, che è un giornalista della Stampa, nel libro 93, l'anno del terrore di Mani Pulite, pubblicato da Marsiglia. 316 pagine, 17 ore e 50. In qualche modo quelle inchieste aprirono uno spaccato comunque sull'Italia, che mostrò una sua ambiguità morale che, come dice Giuliano Ferrara nella prefazione a questo libro, emerge dal corteggio di viltà, di supponenza, di fame, volontà di potenza, dai provincialismi e il cattivo gusto di una cortigianeria frustrata. Il libro è in qualche modo un ritorno, perché già nel 2003 Feltri aveva curato, proprio per il Foglio, dove allora lavorava, una lunghissima inchiesta su quei mesi che era durata un anno. E adesso Mattia Feltri riprende quell'inchiesta, la pubblica organicamente per tentare una ricostruzione giorno per giorno del clima febbrile, spesso allucinato, drammatico di quei mesi, che coinvolsero tutta l'opinione pubblica, la quale si espresse subito a favore della magistratura. E quest'ultima, come ricorderete, fece un uso abbondante della carcerazione preventiva, che sfociò anche nel suicidio di alcuni indagati e che aprì un dibattito sui poteri della magistratura che non si è più concluso e tantomeno risolto. In questo senso quei mesi costituiscono la premessa di quello che è l'Italia oggi. E infatti questo libro rappresenta non il tentativo, scrive l'autore, di semplificare le cose, ma di complicarle. Si diffidi da chi dice la verità è semplice, ci dice l'autore. E su questo libro, come sapete, è scoppiata una polemica familiare, affettuosa, tra padre e figlio, cioè tra Vittorio Feltri e il figlio Mattia. Il primo, infatti, Vittorio, in quei mesi era stato fortemente favorevole da destra all'azione dei magistrati, e su questa questione appunto hanno discusso pubblicamente i due giornalisti. Ma adesso sentiamo il figlio. Buonasera a Mattia Feltri. Buonasera Salvatore, grazie. Mattia Feltri, lei riprende questo materiale che aveva elaborato per una lunghissima inchiesta sul Foglio dopo 10 anni. Ecco, che cosa l'ha spinto a riprendere in mano questo materiale, e soprattutto dopo tutto questo periodo che cosa ha scoperto di nuovo, che impressioni ha avuto di quel lavoro e del periodo che lei descrive nel libro? L'ho ripreso in mano essenzialmente perché è uscita la fiction nel 1992 e un caro amico mi ha detto che dovevo ritirarlo fuori perché c'era bisogno anche di quel punto di vista lì, un punto di vista, diciamo, che non è quello solito, è un po' diverso, è un po' una controinchiesta. Quindi mi ha detto forse è il momento che lo ritiri fuori, perché mi ha detto un bel lavoro. Io naturalmente sono contento che l'abbia detto, e quindi l'ho fatto. La cosa straordinaria per me è che, rileggendo quel lavoro, che l'ho dovuto molto ridurre, aggiustare qualche posizione processuale, sistemare qualche errorino qua e là, è che io ho scoperto una cosa che non mi ricordavo più. Mentre forse era nata come inchiesta un po' accusatoria, ora è diventata una inchiesta che mi è sembrata molto più umana, molto più comprensiva di tutto. E infatti uno dei personaggi dominanti di quel periodo e anche del libro, naturalmente, è Bettino Craxi, dannato, condannato in vita, oggetto di attacchi durissimi anche nel suo stesso partito. Lei nel libro ricorda per esempio la condanna che fecero alcuni socialisti per Amato, che era presidente del Consiglio, perché aveva espresso solidarietà umana al segretario del suo partito. E poi questo capitolo dedicato a Craxi si conclude con un'agenzia sui funerali di Stato ai quali non si sarebbe detto contrario il presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca, e cioè Massimo D'Alema. Insomma, che cosa rappresenta la figura di Craxi in quegli anni, e secondo lei, passati tutti questi anni, siamo stati capaci di riportarla nel suo giusto giudizio? No. Assolutamente no, parto dalla sua ultima considerazione. No, perché si balla fra la dannazione di molti e la geografia di pochi. Penso che Bettino Craxi è stato sicuramente uno statista importante, un uomo che aveva una visione del mondo, cosa che ci è molto mancata negli ultimi anni, anche da parte di leader che hanno preso molti voti. Però appunto andrebbe ricondotto in una dimensione umana, un uomo che evidentemente ha commesso degli errori non soltanto politici, ma probabilmente alla fine il consuntivo sarebbe abbastanza a suo favore, per non dire largamente a suo favore. Io spero che questo libro aiuti a trovare una via di mezzo fra un certo reducismo, una certa nostalgia e anche, ripeto, la geografia che fa qualche ragazzo nei confronti di Craxi. Io comunque quel lavoro, riprendendolo, mi sono accorto anche di un'altra cosa a proposito di Craxi, che è una cosa in cui io credo moltissimo e l'ho fatto in tutta la mia modesta vita professionale: la bellezza di mettersi dalla parte dei perdenti, dei peccatori, di quelli che hanno ufficialmente torto. Mettersi dal loro punto di vista forse aiuta a completare la visione del tutto. In quegli anni in cui si manifestò un'opinione pubblica fortemente favorevole a Mani Pulite e molti partiti erano altrettanto favorevoli, anche la destra, soprattutto la destra estrema, si distinse per essere fortemente favorevole ai giudici. Come spiega questa cosa? E possiamo trovare lì le origini anche di questo dibattito che c'è stato fra lei e suo padre su questo libro? Sì, lei nota di nuovo un punto molto importante. Essenzialmente vengono colpiti i partiti che stavano al potere, sì, quindi quelli che avevano più le leve del comando e la possibilità di accedere anche alle tangenti e al finanziamento illegale. L'ex partito comunista, non c'è un grande accanimento giudiziario, un po' la reazione del PC, dell'ex PC è straordinaria, testuggine, è una cosa che mi colpisce positivamente da un punto di vista, diciamo, antropologico, se possibile. Per quanto riguarda la destra è un'altra cosa ancora, per quanto riguarda la destra si parla di un partito, il Movimento Sociale, che è rimasto escluso dalle dinamiche democratiche per tutto il dopoguerra. E non gli pare vero, non gli pare vero di dire: avete visto, quelli erano tutti delinquenti, noi invece siamo onesti. Poi la loro onestà è stata messa in discussione negli anni a seguire, però come lei nota, poi il grande paradosso arriva alla fine nel corso del 93, quando si va a votare per i sindaci, e praticamente ci troviamo di fronte allo schieramento di, diciamo, estrema destra e estrema sinistra, per sintetizzare molto, che è clamoroso perché erano le tradizioni politiche condannate dalla storia ma uscite assolte dai tribunali. E questo è un pochino all'origine di questa polemica che ho avuto, ma diciamo molto contenuta, con mio padre. Affettuoso, certamente. E in quella polemica naturalmente un ruolo importante lo svolse il PDS, come allora si chiamavano i postcomunisti. Sì, naturalmente. Il problema è essenzialmente che il PDS ha pensato, e infatti poi ci è riuscito, almeno nel breve termine, di trarne dei vantaggi politici. Però trarre dei vantaggi politici per via giudiziaria è una cosa innanzitutto sbagliata in sé, perché la politica dovrebbe avere altri strumenti e non porta nemmeno tanta fortuna. Come appunto poi si è visto, questa grande verginità è stata ripetutamente messa in discussione. Oggi addirittura il Movimento 5 Stelle, agli eredi di quelle tradizioni, rimprovera le stesse cose che il PDS, i DS, eccetera, hanno rimproverato lungo a Berlusconi. Quindi è una nemesi clamorosa vista oggi. Questo libro è montato raccontando i fatti di allora, che appunto prendono le mosse dalla sua inchiesta, però le incrocia con la cronaca di oggi, con quello che successe dopo, i fatti che lei descrive. Ecco, che cosa l'ha colpita di più fra le attese del 1993 e la realtà successiva, quello che successe dopo? C'erano le premesse, secondo lei, per quella deformazione del rapporto tra politica e magistratura che non si è più risolto? Assolutamente sì. C'erano tutte quelle premesse. Naturalmente io non sono un innocente, io facevo parte di quel popolo tumultuante, io se avessi potuto sarei andato a tirare le monetine a Craxi, per fortuna che non disponevo del denaro necessario per venire a Roma e farlo, ma l'avrei fatto anch'io. Nasce un rapporto distorto perché ci si affida appunto fideisticamente a un corpo dello Stato, alla magistratura, pensando che sia un portatore di bene, sempre questa speranza che abbiamo tutti noi della massa, che arrivi qualcuno e ci salvi, che ci liberi dal male. Questo è stato fatto da tutti noi ed è stato fatto da alcuni partiti. Non poteva che andare delusa questa aspettativa, da che il mondo è tale, le grandi rivoluzioni, le piccole e grandi rivoluzioni non possono che andare deluse, perché le aspettative sono la salvezza dell'umanità. Noi non avevamo magari l'idea di creare l'uomo nuovo, ecco, ma di creare il regime nuovo sì, e invece abbiamo creato un regime di secondo file, di profittatori, di extraterrestri, come è stato per esempio Silvio Berlusconi. Non c'erano le premesse, noi ci speravamo, ma non c'erano assolutamente. Perché nell'introduzione ha sentito il bisogno di scrivere che questo libro non è una soluzione collettiva, e aggiunge: non è il tentativo di semplificare le cose, ma di complicarle? Perché quando io lavoravo al Foglio, mi ricordo che ogni nostra controinchiesta veniva chiamata Veleno, no, i veleni del foglio. E io magari ero un po' giovane, ci rimanevo un pochino male, perché mai abbiamo scritto noi sul foglio, almeno quando ci lavoravo io, e non è scritto nemmeno in questo libro che le tangenti non ci fossero, che il pentapartito non fosse colpevole di quei reati. Non l'ho detto io, come non lo diceva Bettino Craxi già nel luglio del 1992. A me preme tantissimo, questo io in questo credo molto, sottolineare che, come diceva Benedetto Croce, non sono idee mie, sono idee molto più nobili, la richiesta dell'onestà in politica diventa petulante. L'onestà è una cosa importante, ma non la più importante. Quando uno va da un medico si augura che il medico lo guarisca, non che poi faccia la dichiarazione dei redditi. È chiaro che è giusto che un politico sia innocente, che un politico sia onesto, è chiaro che è importante, però ripeto, non è tutto. E andando a vedere per esempio la parola di Craxi, molte delle sue tangenti andarono ai movimenti di liberazione dell'est Europa. Negli ultimi anni, negli anni 80, Solidarno, ci andarono molti soldi. Allora bisognerebbe poi complicare le cose, andare a vedere tutte le sfaccettature, perché se ci si affida soltanto al casellario giudiziale si vede soltanto una piccola porzione di realtà. Grazie a Mattia Feltri, autore di 93. Grazie a voi, arrivederci. Buona serata. Una riflessione sull'impatto che Tangentopoli ha avuto sul sistema penale del nostro paese è contenuta nel libro curato da Andrea Apollonio, Processo e legge penale nella Seconda Repubblica, riflessione sulla giustizia da Tangentopoli alla fine del berlusconismo, pubblicato da Carocci, 174 pagine, 18 euro. Qui troviamo vari magistrati, operatori del diritto, che scrivono sui differenti aspetti di questo tema, il quale ha avuto, secondo il curatore, una svolta con l'avvento di Matteo Renzi, che per la prima volta, scrive Apollonio, ha stigmatizzato l'utilizzo politico degli avvisi di garanzia. La magistratura ha assunto davvero un ruolo di protagonista? E perché? Chi l'ha sfavorita in questo processo? Di questo parla questo libro, partendo da molte deformazioni che si sono manifestate. Ne indica una nell'introduzione, per esempio, Giovanni Fiandaca. Fiandaca è un grande esperto del diritto, uno dei maggiori esperti di diritto penale italiano, il quale scrive che l'ergersi del magistrato a pubblico censore finisce col tradire una forma di malintesa superiorità morale nei confronti della maggioranza degli uomini, che rasenta l'arroganza. Mentre lo stesso processo penale, nella misura in cui sarebbe in teoria vocato a giudicare i colpevoli anche secondo criteri di ragionevole giustizia, postulerebbe nel magistrato quell'umiltà di atteggiamento necessaria per poter comprendere i meccanismi spesso complessi e oscuri che spingono a delinquere. Interrompiamo per un attimo, ci sentiamo tra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di due grandi scrittori italiani accomunati nello stesso libro, nel quale uno demolisce l'altro, e cioè Ugo Foscolo, che cade sotto gli strali di Carlo Emilio Gadda. Nel libro di quest'ultimo, Il guerriero, l'amazzo nello spirito della poesia, nel verso immortale del Foscolo, pubblicato da Adelphi, 268 pagine, 20 euro, ed è curato da Claudio Vela. Questo è un dramma radiofonico del 1959 che è arricchito in questo volume da un dossier Foscolo con testi dello stesso poeta e testi su Foscolo, con un dossier Napoleone e con alcune pagine che ricordano la messa in scena di questo testo, che è, appunto, dicevo, è un copione, una conversazione a tre voci che venne rappresentata a Roma poi nel 1967. Il testo di Gadda copre non più di una settantina di pagine e fu scritto per andare in onda alla radio. In questo testo i tre personaggi, una dama un po' vacua e orecchiante che dice talmone anziché talamone, lapsum anziché lapsus, un retore e un insolente critico di Foscolo, danno tutto loro stessi per demolire o per difendere il poeta. Nei confronti di Foscolo il critico è implacabile e dice: quando non gli mollavano grana contro cambiali, schizzava sputi su tutti. Sui milanesi non parliamo, ne pareva un lama inviperito, un geco. Cambiali fasulle, si intende, con che cosa le pagava se non aveva un soldo? Che cosa gli pignoravano? Un mezzo pettine, una scarpa frusta, e scompagnata anche quella, e così via. Insomma, Foscolo, Gadda non poteva proprio sopportarlo e accusava di avere come unici interessi poetici le donne e le are, le tombe, ma si rendeva conto anche di andare contro la corrente dei numerosi ammiratori di Foscolo, che a un certo punto egli stesso definisce un mandrillo, spendaccione, fatuo, maldicente, arrogante e labbrone spiritato. Parliamo adesso di altri due grandi poeti e scrittori, non so quanto apprezzati da Carlo Emilio Gadda. Il primo è Giosuè Carducci, che troviamo nella biografia di Francesco Benoz, che è un docente bolognese, pubblicato da Salerno, 298 pagine, 16 euro. Carducci ci spiega il libro, un personaggio da riscoprire, perché, come ci dice Benozzo, fu vittima di un gioco al ribasso. E questo libro ci illustra la vita e l'opera del poeta bolognese, invitandoci a leggere Carducci al di là del carduccianesimo. L'opera di Carducci, ci viene spiegato qui, fu snaturata, mistificata, epurata, trasformata in moto retorico, addirittura incamerato dal fascismo. È un'operazione di trasformismo alla quale aveva partecipato anche Giovanni Pascoli, che in qualche misura si sentiva l'erede di Carducci. E invece Carducci fu un intellettuale di livello europeo, come del resto segnalò l'attribuzione del premio Nobel, che i francesi paragonavano a Victor Hugo, pur rimanendo egli stesso sempre un solitario e un isolato. L'altro poeta è Gabriele D'Annunzio, che troviamo nell'epistolario con un curioso e significativo personaggio del Novecento, l'imprenditore Riccardo Gualino. Questo libro si intitola Il Vate e il Mecenate, pubblicato da Aragno, 94 pagine, 10 euro, ed è curato da Giovanni Tesco. Gualino, come dicevo, fu un imprenditore capace di visioni particolarmente coraggiose. Per esempio, fu lui che introdusse la seta artificiale, per produrre la quale fondò la Snia Viscosa. Era un antifascista, passò alcuni mesi al confine, poi riprese l'attività imprenditoriale che condusse fino a tarda età. E allora qual è il punto di interesse di questo breve carteggio? Beh, proprio il fatto che il poeta, il Vate, si rivolge all'imprenditore per salvare una piccola e raffinata casa editrice, poi gli chiederà di nuovo un aiuto economico, ma questa volta Gualino dovrà declinare l'invito perché gli affari non gli vanno troppo bene in quel momento. E quindi questa è un'opportunità soprattutto per riscoprire un personaggio interessante di imprenditore umanista, collezionista d'arte e mecenate del Teatro Torino. Un poeta contemporaneo, un collega giornalista nell'agenzia Radio Core, che appartiene alla stessa società alla quale appartiene questa radio, Giovanni Bracco, che ha pubblicato Le grandi mani calme, pubblicato dalla Vita Felice, 88 pagine, 12 euro, dove troviamo dei temi dedicati all'amore e alla natura, nei quali la scrittura, come ci spiega nell'introduzione Elio Pecora, prende l'andamento di un'emozione colta velocemente e restituita per durare. Sentiamo dalla raccolta i versi dedicati al mese che è appena iniziato, e cioè febbraio. Che notte strana, calda. Lo scirocco ha imbrattato di lacrime sabbiose le aiuole miserabili, il cortile del condominio e tutte le automobili, come a una gogna, appendo le passioni all'arancio svogliato dei lampioni, perché tu possa riderne e io farti tornare una donna trattante. Tiepida e dolce la tua saliva dentro polpa di pera. Abbiamo parlato di scrittori, poeti, di letterati, insomma di gente che maneggia la lingua, e allora vi segnalo due libri godibili sullo stato dell'italiano. Il primo è di Alberto Nocentini, glottologo e linguista, che si intitola La vita segreta della lingua italiana, come l'italiano è divenuto quello che è, pubblicato da Ponte alle Grazie, 130 pagine, 12,50 euro. Questo libro ricco di sorprese, forse la più emozionante, è che il latino non è affatto una lingua morta. E queste sorprese ci permettono di rafforzare la conoscenza storica della nostra lingua, una conoscenza che secondo l'autore dovrebbe essere il dovere civico, come scrive egli stesso, di ogni parlante istruito. Nocentini ci aiuta a raggiungere questo obiettivo con una narrazione chiara e semplice che affronta tanti aspetti delle origini della lingua. La parola sedia, per esempio, può riservare molte sorprese e tutte le parole in generale risentono della loro età e della loro origine, che qui ci vengono illustrate attraverso degli esempi. Oggi dobbiamo affrontare la sfida di quella che l'autore chiama le epidemie esterofile, che non è soltanto l'inglese, ma che per lungo tempo, nel caso della nostra lingua, è stato piuttosto rappresentata dalla lingua francese. Ma nell'italiano, dice l'autore, sono entrati dei termini presi a prestito addirittura da circa 150 lingue diverse. Si parla anche in questo libro della parola, appunto, libro. Ci viene spiegata l'origine del termine e ci vengono segnalati i rischi che oggi il libro corre rispetto alla brutalità dell'assolutismo ideologico. Scrive l'autore: la moderna tecnologia dispone di strumenti delicati e pluralistici, ma potenzialmente non meno pericolosi. L'accesso diretto alla lettura per via telematica, offrendo l'illusione di una libertà di scelta illimitata, equivale all'eutanasia del libro e all'eliminazione del ruolo del libraio. Di fatto, al lettore viene sottratto un filtro sapiente e responsabile, con conseguente limitazione della propria libertà. L'altro libro sull'italiano si intitola La situazione è grammatica. L'autore è Andrea De Benedetti, linguista e giornalista. Sottotitolo anche qua molto chiaro: perché facciamo errori, perché è normale farli. Pubblicato da Einaudi, 134 pagine, 12 euro. Qui troviamo non la storia della lingua, ma la sua evoluzione. Sulla quale De Benedetti è forse meno pessimista di quanto normalmente mostriamo di essere. E scrive infatti l'autore: accenti violati, apostrofi oltraggiati, punteggiature vilipesa, congiuntivi profanati. La situazione della nostra lingua è davvero così drammatica? Non esageriamo. Drammatico sarebbe, spiega, se l'italiano smettesse di evolversi, se la nostra inesauribile capacità di creare nuove parole si atrofizzasse, se imbalsamassimo per sempre la grammatica in un codice definitivo di norme. E spiega questa sua tesi, abbastanza ottimista su quella che comunque l'evoluzione di una cosa viva come la lingua, attraverso molti esempi. Passa in rassegna vari errori, anche quelli determinati dai nuovi strumenti con i quali scriviamo, come il telefonino, errori che si diffondono e che dobbiamo in qualche modo tollerare, anche perché non siamo come gli spagnoli, che hanno un'accademia la quale ha stabilito alcune norme grammaticali che dal giorno dopo sono state rispettate da tutti, sia dalle case editrici, sia dai giornali, che dagli spagnoli stessi. E il libro si conclude con un capitolo di consigli non richiesti, che sono già una robusta guida a rispettare la nostra lingua, che tuttavia, l'autore ci ricorda, è sottoposta a una pressione continua che viene da molti errori, certo, che però chissà un giorno potranno anche essere codificati e magari arrivare a farci scrivere senza scandalo un aggiornamento con l'apostrofo. E a questo punto... Il confettino. Siamo in pieno carnevale e allora vi segnalo di Laurent Moreau, che è un giovane illustratore francese, Nella foresta delle maschere, pubblicato da Orecchio Acerbo, 16,90 euro. Questa è l'avventura di un cacciatore nella foresta, appunto, che dove incontrerà animali vari, di cui troviamo qui anche le maschere, che potranno appunto essere indossate dai piccoli lettori. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Roberta Frisani in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.